tutto va a va tutto va a c'è va Certamente, Nicola, hai copiato? Sì, certo, fondo scala quasi. Vabbè, ma noi siamo abbastanza vicini. Ciao Nico, io mi stavo facendo le ultime cose in cucina e abbiamo mangiato molto tardi, adesso mi stavo andando a riposarmi un pochino, giusto mezz'oretta, dai, senza dormire però, perché sennò mi sveglio completamente suonato. Ancora non ho sentito nessuno, peraltro, qua sul 10. Ciao, ciao, a più tardi al limite. Antone, mi stavo riposando un attimino, sentivo piribì, piri, piri, piri, e tu questo Antonello, questo è l'M95. Sto cercando di sistemare col baracchino Levi, la ricezione ce l'ho, però non so che cazzo di canale sono, c'è il commutatore delle 40, vuole pulito, vuole, deve essere leggermente ossidato. Hai detto il Larry? Cos'è, un presidente? No, assomiglia a Saturneco, ma non lo è. Ci manca i frequenzi, mettevo Larry International 3. Ah, è come l'AM International, roba dell'attacco, sì, tipo i molti modelli 3. La scheda sarà la Cybernet, quella scheda dell'epoca, quegli incubi di scheda, mi. Esatto, c'è lo squelch che è partito qua, quindi devo cambiare potenziale dello lo squelch, quindi era lo stacco e controllo da quant'è, poi quando l'ho perfusato lo prenderò, così glielo cambio. Eia, era entrato anche Nicola a chiamare, quant'è, 20 minuti fa? E mi stavo un attimino, insomma, mi sono portato la copertina qua, il plaid, un lenzuolino, e mi sdraio sul divano e mi metto col baracchino dietro, capito, senza vedere nemmeno lo smitter. Ah, va bene, mi sono ospedato di Antonio, che Io ho messo il microfono, ho collegato il microfono amplificato, gli ho collegato nel baracchino suo, adesso appena mi chiama glielo scendo e così qua, se lo porta a casa lo usa il baracchino. Eia. Antonio Occhi, Antonio Bombo. Ah, Antonio Delta 1. Ah, ok. Ah, sì, che lì dovevi, è vero, dovevi mettere quel mic su quel baracchino. Infatti dall'inizio, come ti ho detto ieri, conveniva che ti portasse tutto e glielo facevi in una giornata, ecco. E oggi sono uscito poco in moto a comprare qualcosa da MD. Io ho caricato bene, ho caricato il bustone enorme sulla pedana, il bauletto e lo zainetto. Lo zainetto non era nemmeno pieno, cioè volendo ce ne stava ancora di roba. Così ho cucinato tutto, ho cucinato cose semplici e niente impegnativo. Ancora si stava bene all'ombra, cioè la temperatura non è eccessiva, invece dice che fine settimana, tipo domenica, e quasi dovrebbe essere quasi da bollino rosso, quindi punta a capo. Lo so, stavolta ho aperto la porta della grossa, ho visto che c'è un radio all'interno, cioè, cazzo, mi si è spaccato, quindi quando calma un po' il caldo salgo sopra e si è proprio tagliato il pezzo d'alluminio. Ho facciato che togliere la vite che ci ho messo e ci ho infilato un nuovo dentro e poi rimetto la vite. Ma ti si è rotto per caso una vite che blocca il radiale? No, proprio il radiale, la vite è dovuta metterla a un fianco, capito? Per poter tenere il radiale fermo. Una vite di quelle autofilettate ci ho messo. Ah, ok. Invece nella Energy com'era il sistema? Mi pare ci fosse... I radiali erano tenuti da quella piastra, vero? E poi c'erano tre viti che tenevano la piastra premuta, mi pare di ricordare. Poi erano vitine sottili, anzi è strano che dopo 10 anni non sia sceso tutto lì. Ci sono tutti i radiali, eh. Oh, quell'installazione che abbiamo fatto è un bijou, che quella te la vanterò sempre. Marcolino Magone! Ciao, ce ne sono 60 euro di energia, però è mezz'onda, l'ho vista stamattina. Nuova. Poi ho visto un paio di antenne decadenze che stava lavando, ma cioè, tutta bucaria. Se arrivi a mare, quando quello mare agitato, diventa onda intera. Ciao Luca. A tutti e due. Non è così, Mario. Via. Aspetta, Antonio, dov'è che l'hai vista a 60 euro mezz'onda? Da Marketplace c'è. Guarda, su Marketplace c'è, la vedi. Capito? La mezz'onda c'è della Energy, la stavo vendendo 60 euro. C'è anche una stella. Aspetta, però cos'è Amazon Marketplace per caso? L'usato? Non, l'usato non ne prenderei comunque. Oh, Facebook. Ah, ok, vabbè, io non ce l'ho. Ah, ricordatevi, Luca, soprattutto quando tu mi mandi i link di roba di Facebook da vedere, io non me li fa vedere perché devo registrarmi. E non voglio registrarmi anche su Facebook perché se no mi arriva una marea di pubblicità non richiesta. Ma infatti il video che io ti sto mandando adesso perché li sto scaricando, capito? Tramite il programma li sto scaricando e te li mando così, ma sul video su Facebook, quelli che vedi, capito? Che vedi ultimamente, è perché li sto scaricando, se no non li vedessi perché ti deve far entrare su Facebook. Allora li scarico, siccome ho altra gente che non ha Facebook. Allora li scarico e li mando così. Ehi, tu pensa che non l'ho mai attivato Facebook? Ho detto che necessità ho di mettermi sta cosa, di mettere... Poi io non sono un tipo che mette tutti i cavoli propri in cosa, in rete, capito? E stavo pensando, di notte stavo ridendo, ma pensando a quello nudo in piazza Fiume, ma fuori di testa. Vuol dire che è calore. Pomponio non l'ha visto, no? Stava passando una moto. Non so se fosse anche moto di carabinieri, perché si vedeva una specie di blusetta, di giacchetta tipo azzurro, tipo quella dei carabinieri. Questo completamente nudo e scalzo, camminando in piazza Fiume di notte tardi. E allora era Gotto. Ho detto, sarà Pomponio, sarà. E non credo. Non stanno. Almeno ha preso il fresco. Doveva essere tardi però, perché non c'era un'anima in giro. Doveva essere notte fonda. Gesù. E quelle motte ha detto, non ci stupiamo più di niente ormai. Allora, hai visto. Poteva essere una donna, eh? L'avresti visto quello là perseguitando, l'hai morto. Vieni che ti porto io. E via. Ehi, sarebbe bello vedere una donna, una bella donna, nuda che passeggia, così. Segue le sfide anche tra amiche. Quelle sfide, no? E dice, marrano che non lo fai. Solo che se ti becca poi la polizia, guai. Però vedi, la donna nuda al giro è meno scandalosa. È quasi una cosa bella, purché sia bella la donna, no? All'uomo con questa cosa che pende è uno schifo. Allora. Ne avevo visto una o due io quando abitavo in Corso Vittorio Emanuele, scendevano due a prendersi il cliente, si faceva tre piani, saliva e scendeva a casa, anche le brasiliane, attore gli ha pertenuto l'attore bombola, infatti gli è scesa la bomboletta, ma gli è scesa, ha detto ma questo gli è catturato la scala, pensavo. Cesso, Luca riprendi se puoi. Luca senti cosa? Ui. Ah, sotto cazzo. Se no metta a metà tra uno e l'altro mi dà la come si chiama carità quello apparecchio lì, caspita, guarda come hai detto il nome, Larry International, ho detto, mamma mia, mi si è aperta una finestra, roba, sì, prima metà anni 80, incredibile, me ne ero, l'avevo anche dimenticato quella marca lì, è tipo un ultimo dei tre, AM International volevo dire, ecco, AM. Esatto, sì. Aspetta un attimo che scendo il microfono giusto, sto risalendo, ci stiamo fra 5 minuti. Eia, fai con calma. Luca, ci sei, ti devo chiedere roba di più di pane, panetteria, che mamma si è fissata con una cosa, non ho manco guardato su internet cos'è, niente, Luca è in furrendi. E beh Luca, ti devo chiedere roba di panetteria, perché mamma ci sta fissando con questa cosa che ha un nome, non è piadina, no, non è piadina, ha un nome simile. Non me l'ha saputo spiegare, non ho guardato nemmeno su internet. Mi devo far dire il nome giusto. No, non è tipo piadina, è tipo frisella. Una cosa del genere, sarà un pezzo di pane, biboni, quello che vuoi sopra, è finito il gioco, pane. Io faccio le piadine, ma per esempio le piadine il lievito non ci vuole. Il lievito non ci vuole, per essere digeribili ci si mette il, come cavolo si chiama, insomma non ricordo, quel prodotto bicarbonato. Ci metto, ma io ci metto il lievito, guarda, ci metto il lievito, li lascio riposare mezz'ora e si fanno palloncino, perché a me queste cose piatti, tutti che balla, perché in effetti sono morbide appena sfornate, invece le mire puoi chiudere dentro il pugno e ti si riaprono come, capito? Perché io ci metto il lievito, le faccio riposare, le faccio sottili, come le piadine escono alla fine, però le faccio gonfiare, capito? Luca, Luca, mi sono allontanato per chiedere in regia e poi vabbè te lo chiedo. Vabbè, mandami i vocali, Marco. Ti rispondo così se ti devo mandare la ricetta, No, perché il telefono aspetta, non so dove mi devo alzare da lei, vabbè, tanto sono in piedi. Allora, TGL, io credevo fossero tipo friselle. Devo guardare la foto su internet, che forma ha, cos'è? È tipo panino o tipo frisella? Se che li butti la roba sopra, li metti la roba sopra. TGL, se non sbaglio, sono della parte di Modena forse, TGL è come la piadina, capito? Ah, come volgare piadina, vabbè, siamo lì. Comunque la piadina, vabbè, noi abbiamo preso quelle confezionate, fatta col piccolo chimico, però già quella è buona. Li metti quello che vuoi, la rotoli, a me è piaciuto abbastanza. Certo, bisogna comprarle fresche però, sempre che le facciano qua. Adesso mi guardo la foto di queste tigelle, voglio vedere come sono fatte. Tigelle, è come la tigelle, è come la piadina, però è più piccola ma è più grossa. È il triplo, diciamo, di spessore. Però è più, il disco sarà da 10-12 cm, capito? Perché in ogni posto che vai poi, e mi sembra sia di, non so se di Bologna, di Modena, l'origine. No, io faccio le piadine. E dimmelo quando sei voi, te le faccio. Poi hai visto in che forno le faccio. Ecco, sì, ho visto le foto. Sì, praticamente sono, come hai detto tu, più piccole, tonde, con un certo spessore, le sezioni, a metà ci metti il companatico, a volgare pane, aiuto. Sì, sa cos'è, mamma le vede in TV queste pubblicità, o su quei giornali che ti danno assieme a Sorrisi e Canzoni, come si chiama, Giallo Zafferano, e subito si infiamma. Ha detto, ma è volgarissimo pane, poi la roba buona è quella che ci metti dentro. Sì, esatto, perché ci vuole il crudo, o pancetta o quello che ci vuoi mettere, però il classico pane senza lievito che io sconsiglio, poi certo se ne mangi una è un discorso, essendo un pane, ripeto, senza lievito, perché per cosa non ce ne vuole, io ce lo metto, capito? Però nella ricetta originale non ce ne vuole, neanche nelle piadine ci vuole, capito? No, non c'è lievito, non c'è lievitazione, cos'è? Pane azimo, tipo quello degli ebrei. Beh, pane arabo, e allora, fatto, si fanno le palline, io le faccio da 100 grammi, si fanno le palline subito, poi col mattarello, le arrotondi, le metti in una padella antiaderente, bella calda, senza olio, senza niente, antiaderente però. Intanto te ne accorgi perché fa subito le bollicine, e guardi per poco il tempo quando metti la prima e ti regoli per le altre, poi la giri e capito? È un pane così. Ma chi è? Chi è? Vedo un segnale, non so se c'è di propagazione oppure in baramobile locale. Sembra qualcuno o in barra mobile o accordando. Aspetta che abbasso l'autosquelch che me lo chiude, però magari qualcuno che sta tentando di chiamare dalla macchina e non passa. Avanti, chi vuole entrare? No, forse non, o è propagazione o non vuole entrare. Nel frattempo mi ascolto i tuoi vocali, Luca. Beh, intanto rispondo anch'io su WhatsApp. vediamo se Pomponi è rientrato oppure è andato a prendersi una cosina da bere. Attento Antonello. Secondo me è andato a brindare Antonello, vabbè, giustamente, se no uno sa, tappato a casa è una palla. Via, adesso ho acceso il forno, adesso lascio scaldare. Via, comunque mamma è legna verde, quante volte mi ha chiesto, compra quello, compra il pane, quello, il pane alle patate, hanno quelle specie di mini spianatine alle patate lì e cose piarine, poi alla fine ci butto tutto, cioè ne mangio una e dico ma stasera lo vuoi una, stasera no, domani no, dopodomani no, alla fine si guastano e c'è cos'è la roba che ci sto buttando di pane lì, quindi ecco perché non ti chiedo di farle, sarebbe uno spreco, dai, sarebbe uno spreco. Il volume è zero. Adesso stiamo tutta la sera così. Abbiamo cazzo girato tutto contro la nave, ci sono due tassi sto piccolini che stanno rompendo. Ehi, ma mi senti oggi? Stai parlando in verticale? No, sto parlando con te, non lo potevo dire. Lo specchio baracchino lavorato. Cioè non riesci un po' a risolverla in fretta? No, io non era fatto bene a fare così, no, cazzo. Ma hai visto, come ci ho messo il dito sotto il tassisto, cazzo, ha cominciato a fischiare. È come se fosse fuori frequenza questo apparecchio. E cavolo, ma era quello di cui mi avevi parlato di un problema al VCO? Se è quello. Comunque, ti ricordi cosa ti avevo detto, il Viking 2 ci è voluto un appento notevole, però era stato risolto cesellando la resina epossidica che è durissima, poi arrivando al cuore il VCO con i componenti e sostituendo quello che serviva. Però davvero alla fine non dipende quanto vale l'apparato, non ne vale manco la pena. Già lo so, già me ne sono capizzato. Tanto già se ne trovano apparati nuovi, belli, funzionanti, semplici, e vabbè, semplici una mazza. Anche lì, anzi, asce è peggio con l'SMD, già li aggiusti domani. Ah beh, quello sì. È un casino proprio, un casino. Ecco. Vanno a giocare le fine di testa per niente, ohia. Già domani mattina mi passerò presto, andare a produttore a fare la visita con il cuore. A Proto Torres, e io dovrei organizzarmi un bel di roba. Io dovrei dopo 50 controllare prostata, cuore, il retto, mi ti fanno il coso per vedere, sai. Mamma, no. Senti, se sono episodio già non è prostata, non ti preoccupare. Quando comincia a pisciare male, già te la accorgi subito se c'è la prostata. Ma sai, anche se quei check-up per il cancro colon rettale, no, con tutti i pasticci che si mangiano, non che mi mangio, no, perché c'è gente che fa uno stile di vita più sano, con roba più fresca, no? Insomma, anche quello è un test che andrebbe fatto, ma se... Io, se funziona tutto bene, preferisco non andare a rompermi le scatole a fare. Poi già il CUP è un incubo, è un incubo. Allora, guarda, fai prima a pagarti gli esami. Poi ti danno gli esami a Cagliari, me la volevano far fare. Ho detto, ma voi siete scemi. E poi un anno di attesa. Ho detto, voi siete malati di mente. Me lo pago di tasca. Mai si veda, non è pazienza. Se proprio ne devo fare un... Io mi devo fare una risonanza magnetica alla testa, no? Che c'è a Cagliari? Vai tu a Cagliari. Poi quelli di Cagliari li mandano a Sassari, capito? Sembra fatto apposta per far passare la voglia di fare gli esami con la sanità, no? Lo so. Io fare la risonanza magnetica, mi ha detto a Cagliari a gennaio. E io ho detto a gennaio, ho detto ci voglio 200 euro per scendere, io ho detto. Prima cosa, ho detto. E la faccio prima, ho detto andare a Tartamona, ho detto pago. Aspetto che questa benedetta legge che in pratica se paghi poi ti rimborsano, capito, ciò che hai pagato. Vai da privato direttamente via Tartamona, poi ti rimborsa direttamente la SL. Per il rimborso non saprei. Comunque, sì, una di queste mattine mi faccio un giretto a Platamona, lì chiedo se fanno proprio quel tipo di esame con quel tipo di contrasto, che c'è un nome strano, e me lo faccio lì, a pagamento. Poi se riesco a recuperarli bene, sarò paziente, però io ho necessità di farlo questo esame. Dice, fra un anno gli capelli al cupo, fra un anno sono bello che è morto. Ah, quello sì. Anche come mettere su Google, ti do il nome del sito e entri direttamente lì a Platamona. Hai capito? E c'è scritto tutto, c'è scritto. Puoi telefonare, adesso non mi ricordo come cazzo si chiamava. Aveva fatto un esame Simona lì, aveva fatto lì a Piazza Buona, adesso non mi ricordo come si chiama, i chiede salute, non me lo ricordo adesso. Che figli di puttana, scusa il termine, ogni volta chiamano il cellulare, quello piccolo. Se rispondi, ciao, torna in Telecom, ma vai a impiccatevi tutti. Se invece poi lo rifai il numero, e dici, non è corretto, perché capito, loro hanno i call center per chiamarti, ma il numero non è mai raggiungibile. e poi sono tutte voci automatizzate, messaggi preregistrati. Ma è una cosa allucinante, è una cosa allucinante. Sì, basta, ho rispondato, ti arrivano tutti, te lo accorgi subito, o 070, oppure numeri di telefoni strani, 05, eccetera, eccetera, tutta roba del genere, capito? Infatti è che non lo puoi fare con tutti i cellulari, io volevo predisporre, e sai cos'è, quello è un telefonino a tasti, col numero antico, no? Proprio quello primitivo. E lì non lo puoi fare, volevo fare in modo che squillassero solo i numeri in rubrica, cioè che ricevesse solo le telefonate da gente conosciuta che ho in rubrica, invece non si può fare, forse pure con lo smartphone, ma non sono sicuro nemmeno per lo smartphone. Non me lo ricordo adesso, comunque mi sembra che si possono eliminare quei numeri, capito? E quindi da sotto mi sembra con un puntalino eccetera eccetera, mi sembra ci sono dei fori sotto lo smartphone e in pratica ti con cosa strana, adesso non me lo ricordo, ogni tanto fanno vedere cose strane. Ah, quelle fesserie, sì le ho viste, no? Tutte le foto sono ingannevoli. Sono ingannevoli, ti fanno vedere una foto che infilano come uno spillo sotto, poi c'è poi tutta un'altra cosa. Guarda, internet rispetto al 2000, io quando è che ho iniziato? Intorno al 2000, sta diventando tutto pubblicità, tutto truffe, tutto imbrogli, tutto a vendere, a gabbare le persone. E veramente poi quei canali tipo YouTube, prima erano più permissivi, adesso non puoi. No, praticamente YouTube mi sta sistematicamente bloccando i link. Se io linko un pezzo di un video sempre di YouTube su un altro canale YouTube per rispondere a uno, per fargli vedere un pezzo eccetera, niente, i link stessi di YouTube non me li fa mandare, e se proprio mi blocca anche i messaggi normali, i messaggi di testo normali, li scrivo, esco da quel video, da quel canale, rientro e il messaggio mio è scomparso. È veramente una cosa schifosa, poi tutta gestita da algoritmi YouTube, queste presunte intelligenze tra virgolette artificiali, quindi che fanno casino e basta. Esatto, sì, a fine agosto abbiamo un ciclone in arrivo. Ciclone carico di temporali in arrivo nella prossima settimana, le previsioni per fine agosto. Addirittura ciclone, all'anima, quello di Pieraccioni, il film. Speriamo che possa portarvene via tutte le antenne CB, tutte, che se le porti via. Così saremo a pensare antenne, antenne TV, parabole. Come si è portato via con la barca il ciclone indistruttibile, non mi ricordo se erano 7 metri di coso o 9 metri, si è fatto l'appicco in un minuto e mezzo. Antonetti, sento sul canale a fianco mentre hai parlato, o colpa mia o colpa tua? Io sono sul 10, non sono sull'11, sono sul canale 10, ho acceso il telemoto, 27.075. Sì, ma adesso sei tornato sul 10, non è che hai sfiorato il tastino tipo più 10 kHz, no? No, niente, non ho sfiorato niente, non ho toccato nulla, solo con i ludessi, 10, canale 10, canale 10. Allora questo baracchino, boh, aspetta che cambio baracchino. Che cazzo l'ha pigliato? Ora, ecco. Adesso va bene, canale 10. 1, 2, 3, ecco, più 10 km è questo. Il pulsante l'ho toccato. Questo è 10, ecco, adesso già sta funzionando bene. Già va bene, è la baracchina mia, se fa stato il cosa dei pulsativo per il corso, è più 10. Ho cambiato baracchino, ho detto non sia che sia quello mio. Questo è il 3009. Hai detto cosa è successo, cosa si è spostato? Il pulsativo è più 10, si è spostato, no, non è che accorto, capito? Infatti quello ti ho detto, magari era a cavallo, a metà strada, un po' andava sul 10, un po' ti sentivo al 10 e un po' sull'11, anche mentre modulavi te lo faceva. Me ne sono accorto, ho acceso il input. Beh, allora mi sa che do una scaldatina al 3009, dai, che era fermo, cioè spento era. Superstar 3009, componenti classici, aspetta che li regolo lo squelce. Fine corse centrale, la modulazione sarà presumo anche migliore, c'è un po' di mal di gola però perché sto dormendo sempre in boxer e con la finestra aperta e quando mi fa un po' di corrente da una parte all'altra della casa però mi becca subito la gola e poi di fare la finestra la picchierò a quelli che sono vicino a te. Dimmi, ripeti, che entra dalla finestra. Ho detto alla finestra, poi vi fai vedere, dato che sei in box, la picchiriola, quelli che sono fuori. No, no, non si vede, c'è tra serranda, tendine, anche se aperta, ma è... c'ho anche la piantina sul davanzale. E poi se la vedono, vista una, le viste tutte, mi. K, aspetta che muovo il mic gain, questo è uno, l'RF gain, ecco qua. Dargli una così va bene, tutto a posto, sì, la modulazione sì, sta facendo benissimo, ho voglia, sì, perfetto, perfetto proprio. È peccato, l'unica cosa, questo baracchino non ha il bip escludibile, quello l'avrei voluto escludibile perché certe volte per esempio di notte tardi può dar fastidio. Vabbè, non sto più entrando, ma mi ricordo una volta quando si parlava di notte tardi con volumi bassi, no, di ricezione a voce bassa e poi sentivi di botto il bip che era un bel forte in confronto alla voce, poteva scocciare di notte tardi. Il bip era in quinta, era micidiale, cazzo, poco toccava. Eia. Peccato, quegli apparati là li avrei voluti almeno avere anche temporaneamente. Hai gain quinto, LMS 200, capito, almeno provarli un po' di tempo. Invece ho avuto l'ultimo dei tre, che a parte che era un sentivi tutti in tutti i canali, però era completo, vedi, c'aveva i più 10 kHz, la potenza regolabile, AM/FM, banda laterale, un po' tutto aveva, da. Potevi togliere anche il bip lì, ecco, me lo ricordo ancora, c'era 200 canali, insomma. Ma ce ne sono parecchi di Alien Quinto in vendita, se ti fai un giretto, li trovi quanti ne vuoi, mi. Alien Quinto, l'ultimo dei due, LMS 200, c'era uno l'altro giorno. E volevo insieme intorno ai 150, 200, 200 mila euro, non mi ricordo. Hello. Chi è avanti? Buonasera, Sentata 3, Alfa Delta. Kappa, ciao Alfa Delta, ben sentito. Fammi vedere un po' il segnale, mi pare sia intorno al 6 o 7. E la radio com'è, grazie? Allora, la radio sembrerebbe buona, ti mando avanti Antonello che è più in alto e ti copierà meglio, vai Antone. Ehi, a prova Anto, a vedere. Un, due, tre prova, vedi un pochettino, ti sto mettendo appena il preamplificato, guarda un po' com'è. Adesso vai meglio, segnale 3, sì, radio 4, a voglia. Ma la radio è buona? Ti sento bene almeno adesso, ok. Avanti, Marco. Sì, allora sì, la timbrica è, sembra quella di quei microfoni là, no? Tipica. però almeno adesso arrivi di radio. Ti ricordi che una volta dovevamo passare in FM per riuscire a copiare la radio, la modulazione? Esatto. Io sono liscio e non so quanto mi copri bene lui, sono nudo e crudo sono. E qua arrivi molto basso, arrivi, la radio è comprensibile, se si apre la propagazione si tappa la propagazione. Ehi, allora ripeto, sì, tu sei Santiago 7, Santiago 7 radio 4, diciamo un po' rimbombante, ecco magari. Io va bene così, dai, sto provando questo preamplificato a vedere come esce, come non esce, capito? Antonio Galletto gli ha messo la parrucca. E la stampa bisogna procurare, vabbè, al limite per la cinese piglia un pezzo di alluminio e le faccio la stampa, così con due buchi risolviamo il problema. Comunque confermo quello, l'impressione che ho avuto da, anche a casa di Antonello. I toni sono abbastanza alti, sì, i toni sono abbastanza alti. Nello, non lo commenti tu, no, sei zitto. Lasciamo così di amplificazione, sennò senza lineare, capito? Non ti sentirei poi. Lasciamo così alto, almeno ti ascolto. Se segnale 3, a parte di QRM, c'è un po' di QRM, c'è, va? Già lo passi. Ehi, c'è un po' di QRM, cioè, oggi è un casino della valora. Tu figurati se vai in FM, il casino ci sarà. Infatti, c'è un po' di propagazione leggera, leggera. Comunque gli arrivi adesso. Ok. Avanti, Marco. Adesso sì che ha cambiato Antonio. Un'altra cosa, poi se... Se attacca a Gigetto una di queste sere dovrebbe arrivare da 3, minimo 7 o 5 o 7 di segnale. Ehi, un attimo Antonio che sto aprendo la bottiglia dell'acqua. Oh, quest'acqua DMD, quella bottiglia da litro e mezzo frizzante, da spaccarsi le dita, la devi aprire con le pinze. Sì, lo so, perché la vita la macchina. Lo so, infatti, o c'hai dove ho denti la buona, o se un paio di pinze per aprire quelle bottiglie. E poi adesso, vabbè, il tappo ormai non cade più, perché quando lo apri ti rimane a metà aperto, capito? Avanti, Antu. Scusa un attimino che stavo dando una questione e ti riprendo subito. Va bene, fai pure, già non c'è problema, già siamo qua. Stavo bevendo, Antonio, già è poco fredda. No, però deve essere una partita. Una partita è uscita così, perché normalmente l'apri con una mano, riesci a svitarla, ma questo è proprio da pinza e se no non riesci a aprirla. Va bene. Andà bene. Usali, dai. Guardate il tornado a coso, il 2009 a Giuseppe Leoncino, ieri. Se la porta a casa l'ha provato, visto che gli esce bene, sempre come che arriva qua. Però non è ancora entrato, evidentemente sta facendo roba. O i dormiddu. No, infatti ero curioso di vedere quanto arrivava di segnale, è qua. Io vabbè sono coperto, un bel di roba coperta c'ho qua, con la collina, è un vero peccato. Ah, Giuseppe lo sta sentendo bene, è in zona aperta. Sono io coperto per lui, più che altro, perché lui mi tappa tutte queste palazze di roba che mi hanno piazzato, quindi sono a casa, che sono più alte del palazzo mio. Ma qua è peggio la situazione, perché mentre tu hai delle palazzine, peraltro a una certa distanza, io c'ho proprio a ridosso questa collina che sale a picco, tutta la Prunizzetta, Gorizia, ce l'ho proprio a picco, senza contare anche la collina del monte. Io avrei voluto invece il nord libero, il nord, capito? Invece sono libero più verso Alghero, verso Stintino, capito? Da Stintino in poi sono libero. Va bene. Ah, c'è stato Torres, Sentino, Alghero, un pezzo, Capocaccia ci ha aperto. Guardate, volevo mandare tappa mega tacceri di Caponazzi. Per la zona di Sorso, proprio sulla volta. Una volta lo sentivo bene, risentivo. Eccetera, eccetera. E la zona di Usilo. Ribù. Infatti mi dicevi che quando eri in via Ricetto era un bijou, per certe zone era migliore lì che non adesso, eppure lì sei bello in alto, a parte palazzina, qualche palazzina qua e là, non è male la tua posizione, non è niente male. Allora, che Ricetto, parlavo con tutti, parlavo con la zona di Nuoro, Cagliari, Vinacidro, li sentivo tutti, li sentivo, figurati. E non c'avevo il problema che ho qui adesso, mi. Allora, dai. Perché lì le macchine non è passata manco una. E eravamo che entrava qualche macchina. Infatti il bar era solo pieno di CB era. Altra gente succedeva. Antonio, ma tu ti ricordi quel... Adesso ti cito un episodio. Vedi se te lo ricordi. Allora, eravamo proprio vicino a casa tua, no? Quella traversa che c'è poco prima di casa tua di via Riseduli, no? Era venuto, mi pare, Davide in macchina e quindi eravamo fuori dalla macchina, c'era Davide, tu, credo di ricordare io, no? E c'è questo signore da quei palazzi lì. Cioè, voi con questi baracchini quando state lì a cincischiare con questi baracchini state disturbando tutti i canali TV. Te lo ricordi quell'episodio? Sì, già me lo ricordo. Erano tutti collineari, cazzo, venivano furgoni, tutti quanti collineari, i tassisti lo stesso. E quindi massacravano il palazzo che c'avevo a fianco, quello dove abitava i finanziere al tuo piano. E palazzo mio disturbavo io. E un po' dalla parte di Cosome, di via come cavolo si chiama? Abbiamo il signor Saba. Allora confermi, già te lo ricordi. Poi mi ricordo questo termine, dice, come quando voi state a cincischiare con queste cose, con questi baracchini. E infatti già veniva tutti i giorni lei scomposta contro contro le cose. Ogni mattina alle 8:30 in punto sapevo cosa diavolo fare, veniva a trovare a me. Alla fine mi sono trovato male e ho detto, scusa, se vuoi entrare entrami, ti invito il caffè, ti invito la birra, fa quello che vuoi, ho detto. No, ti aspetto fuori, mi ha detto. Allora ho detto, fa una cosa, io da qua detto, me ne vado alle 2, te la bala. E ho vengono tutti gli amici miei, gli ho detto che c'è le baracchine, e così almeno li controllo tutti, e domani mattina gli ho detto li controllo tutti, gli ho detto che non te ne apro la macchina, tu sei tutto scemo, gli ho detto. E lì c'era la Mecca, tutti da te venivano, e poi all'epoca delinquenti tutti con linearoni, a loro rischio e pericolo peraltro, ma infatti tu non gli hai detto alle scopposte, ma guardate che a me mi vengono a trovare, sono tutti con lineari, io che colpa ne ho se disturbano in zona. Tutti c'erano 550, tu ricordi, Pier Andrea, Gesù Lupo Giallo, Santa Quella del Giorno, poi Andrea Maricomio, tutti quanti con l'ineare 550 erano, non vi era uno che non c'aveva l'ineare. Aspetta, hai nominato uno giallo, chi era? Barone Giallo per caso? Barone Giallo già l'ho conosciuto. Sedda si chiama di cognome, Gavino Sedda, anche quello. Sono parenti con quell'altro che è morto, che aveva le figlie gemelle. Ah boh, non saprei. Non saprei, ma una volta mi doveva vendere un baracchino, e mi pare fosse lui, mi doveva vendere un baracchino, ed era un, Tipo Concorde 2, una cosa del genere. Me l'aveva dato per provarla in casa. Io, come me l'ha dato, l'ho poggiato a casa. Poi non so cosa, non mi bastavano i soldi, non mi aveva convinto, perché alla fine era come le multimode, pigliavo una marea di colpi. Gliel'avevo riportato e lui subito, la prima cosa, appena gliel'ho dato, qua questo graffio che hai fatto, ma un'incisione profonda mi c'era sopra sulla mascherina, che a me sembrava che ci fosse già, perché io non l'ho passato, io l'ho poggiato sul tavolino, bello libero, in casa, ma mi ha fatto una partaccia quella volta, dice, vabbè, se no, vediamo se si può riparare questo graffio, se no te lo carichi tu. Una partaccia, oh, già ce n'era gente, lasciamo perdere. E comunque questo barattino che ho io, lui è di Gesù Lupo Giallo, che l'ha dato alla OCB. Via. Chissà, ma io mi chiedo all'epoca, Antonè, ma baracchini fregati, rubati, quanti ne giravano all'epoca? Un bel scommetto. Sì, da Olbia specialmente arrivavano a Mecca, tutti. Tornavo con le 4.000, quando un 23 canale un giorno mi ha portato a telefono. E poi questi baracchini, ho detto, ma che ti hanno dato? Me li hanno regalati, me li hanno. Cazzo, dato ti regalano tutto, ho detto, a Olbia. A me non mi regalo niente, nessuno. Poi ogni tanto veniva più oggetto, ma non è che c'è il baracchino di tale persona, che il ristorante 27 mega, insomma, ha detto che c'è a Olbia. Un 23 canale, ho detto, sì, ce l'ho, perché? Dice perché c'è la denuncia, mi ha detto che ha fatto il titolare del ristorante e li vuole baracchino indietro. Mi ha detto, te lo fate per andare addirittura, la prossima volta mi porti dietro gli apparecchi, gli ho detto, non me ne potrà rubato a casa, gli ho detto, che non voglio passare ai casini per colpa tua. Ho detto, se hai rubato tu, e sono cazzi che arrivano a me, gli ho detto. Comunque l'ho dato, detto a Pierluigi, e poi l'ho detto, lo sto portando a risolvere 27 mega, perché gli ho dato quell'apparecchio, mi si è bruciato a me in furgone, non sono proprio i miei, gli ho detto, te lo paghi, gli ho detto, arrangiati. No, ma infatti lì, anche se te lo regalano, c'è il rischio di coso, denuncia di ricettazione, è una cosa delicata lì. No, ma infatti certe volte quando venivano a propormi i baracchini, cioè li vedevi senza, privi di scatola, privi di, certe volte manco senza staffa, sembravano proprio stracciati dalle macchine. E io non mi fidavo. Anche a comprare a basso costo roba. Ho detto, ma ce l'hai la scatola, l'hai ricevuta? No. Poi ci mettiamo d'accordo, la cerco, sì. No, non ne ho mai preso lì. Non mi sono fidato, Antonio, troppo delicata la cosa era. E avevo venduto 5-6 di quei bacchi rubati dalle macchine, c'era un periodo e rubavano, ma 5-6 non di più me. Addirittura avevano rubato una della manicomio con il GB4 toni e poi è stata al baracchino, gli ha detto Andrea. Dice, caspita che bel baracchino che c'hai. Dice, fammi 500 euro, gli ha detto. Bello. Guarda, non è che sta vendendo, gli ha detto Andrea. Sì, vieni alta voce, che così te lo do, dice, ne voglio, mi sembra, 30-40 mila lire, per se va il baretto. E allora tu gli ha tirato questa sussa, Andrea, quello. È stato due giorni che più un mese è cazzo che la vergogna diventava più a baracchino. Ecco perché io tengo sempre le scatole di tutto, gli scontrini originali o fotocopiati, perché poi si cancellano, no? Cioè, col timbro del rivenditore quando lo mette. Cioè, se io do roba, se proprio la devo dare, la do con documentazione. E lì era troppo ambiguo, se ti proponevano delle cose, poi gente che non conoscevi, dice, c'è un amico che sta dando una cosa, certe facce, poi mi ricordo, guida, si punimo da coglio, vai, ammazzati. E vabbè, paga le fatti, baldi, 90, torno al 2000. Poi non hanno più rubato manco un baracchino, non c'era gusto, capito? Potevo lasciare tranquillamente in macchina, non toccava più nessuno. Di solito faceva lo stereo, i Kenwood, di coso, adesso mi ricordo le altre marche. Mi portavo delle cose da usare a me, diceva che me lo sistemi lo stereo, mi metti i cavetti nuovi, perché era giù il perforato. Allora prendevo, lo smontavo tutto, incominciavo a saldare tutti i fili, e poi dovevo cercare il canale per canale, davanti e dietro, segnarmeli, poi i fili dell'alimentazione, il cavo dell'antenna elettrica, il cavo della... eccetera eccetera, dell'illuminazione, un casino era. Chi è che vuole entrare? Chi è? Avanti, avanti, avanti. Oia, tu mangi la bane, bu. Oia. Immagina se dovessi mangiarmi tutto quel pane ogni giorno, diventerei un obesone. No, ma io me lo congelo, adesso quando raffredda poi me lo congelo, mica me lo mangio tutto. Ma non stavo più mangiando il pane, capito? Quando capita così, magari che ti vuoi fare mezza focaccina, così se non ne vuoi cucinare, sai, a pranzo, così. Ma se no, pane, io anche con la carne, proprio zero. Anche se non diventa davvero una gubba. Se quelle focaccine buone con, mamma mia, pomodoro, rucola, prosciutto crudo, tipo roba del genere, mamma mia, che buone. Come quelle che fanno Alghero, sai, quelle paninerie, già hai capito, sì. No, no, panini fast food, no, quella roba mummificata, roba bella fresca. Ah no, questo considera che sono fatte di semola, hai capito? Quando faccio pane così è pane di semola. Eia, oia, eia, oia, oia, oia. Riprendi, Antone, che bevo. Luca fa il pane lì che vendono da Usilo, quello che fanno a Usilo. Poi lo tagliano a fette e... se lo compro e costa anche un bel quel pane lì. Antone, però quel pane lì comunque lo devi consumare, capito? Addirittura lo vendono già in fette pure. Ma lo devi consumare, io se li faccio, quelli li faccio piccoli, non quelli grandi, quelli piccoli, piccolini proprio, ma se no manda a mangiarsi tutto qui sul dondo e i canti di in famiglia e mangiarne tutti i giorni poi, no. Io lo so, io un amico ciò che compra quel pane lì, capito? Quando faceva le cene, i pranzi, comprava quel pane, poi lo facevano pagare parecchio quel pane lì. Era anche buono, l'ho assaggiato. Voleva solamente quel pane di Usilo, non voleva nient'altro. Andava a Usilo e se lo ritirava lui. Sì. No, io ho fatto il panificio di Sennori, anche, nella zona però su industriale, chiamiamola così, però facevamo gli spinati e il pane di pistocco. Ho capito, e vabbè, già me lo ricordo, lavoravi lì in via Sosa, più avanti di Adriano, c'era la pasticceria lì, lavoravi lì, già me lo ricordo. Da Marrusso, il primo panificio che ho fatto è stato lui, poi vabbè ho fatto per Danieda, Porto Torres, appunto Sennori, a cosa Melio. Non hai fatto caso che c'avevi figlie buone? No, l'ultimo che ho fatto è stato Porto Torres, che adesso è morto da poco, anche Simone Ruda, si chiamava, panificio Ruda, ed eravamo io, lui, la moglie e la figlia. Figurati, no, Giampaolo, c'era anche il baracchino Giampaolo Calvia, anzi, l'aveva comprato lui, lo usava la moglie e le figlie lo usavano, su al monte. Figurati, io conoscevo già da prima, poi... quando lasciava il baracchino, veniva a Bogaiete che andava al panificio, andava lì in casa sua,